questo pezzo è per la mia isola, per la mia terra, per la mia gente, per chi come noi ci crede veramente. Non sarà un ritorno, solicino un brano dall'isola, clic clic, questo è il nostro sound. Dammi la carica, dammi un beat che esplodo. Il tempo va, scorre come sangue nelle vene. Questo suono zio, sento chi mi appartiene. Nel male e nel bene, tra mille sacrifici, tra giorni amari e giorni difficili. Una storia nata, costruita dalle radici. Un'isola tra colori che ci tengono uniti. Tra suoni e tradizioni, ricordi scritti sul papiro danno fuoco alle emozioni. Sanno chi siamo, cosa scriviamo, dai nostri volti, dai nostri nomi. L'onore e il rispetto, la fota per scrivere ogni pezzo. In balia delle onde dentro questi mari, portiamo le origini della Sardegna, la storia dei nuraghi. Non dimentichiamo da dove veniamo, parliamo della nostra cultura. Racconteremo del muto di Gallura dentro ogni rima, come la Sardegna porta a cara la vita di Graziano Messina. Racconteremo del banditismo sardo, lasciando un messaggio chiaro per non arrivare in ritardo. Finché c'ho fiato, finché c'ho voce, porterò con me salda terra, quattro muri e la sua croce. Stretti dalla tradizione, uniti dal nome, legati come mamma e figlio da un cordone. Finché c'ho fiato, finché c'ho voce, porterò con me salda terra, quattro muri e la sua croce. Stretti dalla tradizione, uniti dal nome, legati come mamma e figlio da un cordone. Facce stanche, se gli occhi lacrimano l'anima anche. Faccio un viaggio all'interno del mio essere, dal fuoco paradiso e benessere al troppo inferno e malessere. Strati di tessuti come trame da tessere, scrivono parole come un libro da leggere. Rime per saziare lo spirito e crescere. Differenti strati, più vari ricami. Inizi a sentirne la mancanza solo quando quello che ami ti sfugge dalle mani. Ti accorgi che non ha importanza né chi sei né come ti chiami. Perde valore il colore perché è rosso il sangue di tutti gli esseri umani. Più c'è emorragia, più si continua a premere. Più si va avanti, più ci spegniamo come cicche in un posacenere. La luce dei lampi illumina la notte al giorno. Il rumore dei tuoni mi rimbomba intorno. Mi sveglio, mi so perso il sonno qua. Stanotte io non dormo. Finché c'ho fiato, finché c'ho voce, porterò con me salda terra, quattro muri e la sua croce. Stretti dalla tradizione, uniti dal nome, legati come mamma e figlio da un cordone. Finché c'ho fiato, finché c'ho voce, porterò con me salda terra, quattro muri e la sua croce. Stretti dalla tradizione, uniti dal nome, legati come mamma e figlio da un cordone. Suoni che nascono nel silenzio, nel vuoto di quest'isola. Suoni che portano forza dentro questa vita. Tra odio e perdono, l'amore per il suono, per questo suono. Perché rappresenta quello che sono. Uno fra tanti questo mondo. Vado avanti lottando nel fango con i pugni di piombo. Per ogni rima scritta, solo sudore e fatica. Una lunga strada in salita, dove nessuno si accontenta. Dove il sole è una stella spenta. Vita come amore, vita d'onore. Vita come compagna che mi accompagna. Vita estranea che mi estranea. Occhi tristi dietro ad un passamontagna. Brano sardo d'occhi in cerca di calma nel mio karma. Quante volte ho detto la mia penna, la mia arma, la mia rima, la mia spranga. Quando la vita casca a valanga, porta con sé macerie troppo grosse e pesanti per una sola vanga. Finché c'ho fiato, finché c'ho voce, porterò con me salda terra, quattro muri e la sua croce. Stretti dalla tradizione, uniti dal nome, legati come mamma e figlio da un cordone. Finché c'ho fiato, finché c'ho voce, porterò con me salda terra, quattro muri e la sua croce. Stretti dalla tradizione, uniti dal nome, legati come mamma e figlio da un cordone.